nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Allora, mie cari ascoltatrici, miei cari ascoltatori, avete riflettuto tutta la settimana, vi siete presi appunti sulle cose, mi siete detti sabato non ci sono più le mezze stagioni, voglio parlarne di questa cosa, voglio chiarire, voglio chiedere, voglio dare la mia opinione, insomma, liberamente. Eccoci arrivati quindi al nostro appuntamento del sabato di fine settimana per tornare così in modo molto rilassato, a volte anche un po' più frizzante a seconda del tempo a disposizione, sulle notizie della settimana. Cosa vi ha colpito di più? Il numero verde è sempre dall'inizio a vostra disposizione, 800 24 0024, numero verde, dico sempre anche numero ecologico, chiaramente, no? Boh, evocativo questo verde, ma anche perché confluiscono tutte le vostre energie invece che disperdersi così nell'ambiente direttamente qua. Non ci sono più le mezze stagioni. Tra poco naturalmente vi presenterò l'opinionista estemporaneo di oggi, però vi vorrei dare sempre un'esigua sintesi delle notizie di questa settimana, naturalmente un po' nell'orecchio di tutti ormai questa espressione spending review, no? Che cosa ne pensate di tutti questi tagli approntati più o meno definitivamente dal governo? Ieri Napolitano l'ha firmato questo decreto, quindi è legge. Si parla di tagli naturalmente nella sanità, nella scuola, che sono le cose che più stanno facendo, diciamo, creando polemiche. Già vedevo sul primo titolo del Corriere Online Bersani che dice: sulla sanità si rischia il caos esodati, più o meno 18.000 posti a rischio, quindi la situazione, almeno dalla parte dei partiti, vista è questa. Voi che ne pensate? Avete già dato un'occhiata ai giornali? Avete sentito la radio? Visto la TV? Cosa ne pensate di questi tagli? Poi, fra le varie notizie, anche questa non è una novità, a proposito di crisi, il 35,8% delle famiglie in Italia ha ridotto i consumi alimentari. Poi, per quanto riguarda la Fiat, Marchionne sta venendo fuori ogni settimana a dire le sue, ha detto questa settimana che con questo mercato, che non ha assorbe nuove auto, c'è in Italia una fabbrica in eccesso. Quale sarà delle quattro? Facciamo il gioco delle quattro carte invece che delle tre? Si vedrà. E poi, fra le varie, anche la ministra Fornero, la mozione di sfiducia è stata bocciata, e poi la sentenza sulla Diaz, sulla scuola Diaz durante il G8 del 2001, lo sapete che la Cassazione ha confermato le condanne per i vertici della polizia e quindi scatta per loro la sospensione. Anche di questa cosa ne pensate? Ho visto diversi commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, poi magari con un po' di tempo andiamo anche a guardarlo. Francia, c'è stato il sì definitivo, nel senso Hollande l'ha detto, l'aveva già promesso nel suo programma durante la campagna elettorale. Dal 2013 dice ci saranno nozze per i gay in Francia e anche le adozioni, e Facebook a sua volta rivoluziona la rete, dice sì alle unioni gay e spunta questa icona homo. Sapete, sulla pagina Facebook, se andate a vedere, c'è anche un'icona con due donne e due uomini, per dire appunto io sto con una donna, io sto con un uomo, eccetera eccetera. Molte le inchieste, ma non vi sto qui ad annoiare perché sono moltissime. E vediamo un po' che cosa mi ero appuntata ancora fra le notizie di questi giorni. Beh, Samantha, che sarà Cristoforetti, la prima astronauta italiana ad andare nello spazio, di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. In Argentina, finalmente una buona notizia che vedevo che anche una ascoltatrice sulla pagina Facebook dava, cioè la condanna dell'ex dittatore Videla, argentino, a 50 anni di carcere. Voi sapete questa dittatura orrenda, veramente da fin dell'orrore, tra il 1976 e il 1983 in Argentina ha fatto scomparire, i famosi desaparecidos, migliaia di persone, di giovani, donne e uomini. E questi 50 anni sono stati comminati per aver poi rapito dalle donne uccise centinaia di bambini affidati poi ai militari. Poi che cos'altro? La morte di Sergio Pininfarina, Santoro che firma con la 7, insomma ne avete di cose su cui riflettere. Ma che cos'è che anche questa settimana, signore e signori, ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Ebbene sì, anche l'ultimo regime super comunista, l'unica monarchia comunista al mondo, la Corea del Nord, attenzione, dopo divieti di anni, di anni, cede a pizza, patatine e scarpe con la zeppa. E sapete che erano vietatissime perché erano simboli della cultura capitalista e capitalistica, quindi anche per loro pizza, e bisognerà vedere poi quanto buono, insomma, patatine e scarpe con la zeppa. Direi che effettivamente un motivo anche di ritenere che non ci siano più le mezze stagioni è questo taglio agli statali e il fatto che il posto fisso, quello che è diventato un mito negli anni in Italia, no? Quello nel pubblico impiego, non è più così. C'è sempre anche qualcosa che ci conferma che invece ci sono le mezze stagioni, che le cose continuano così come sono. Prosegue anche questa settimana il femminicidio. Solo nei primi sei mesi del 2012, vi ricordo, ci sono state 71 donne uccise da mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati. Questa settimana un uomo a Palma Campania, vicino Napoli, ha ucciso a forbiciate la moglie, che avevano due bambini di 6 e 4 anni, per un attacco di gelosia. E a Trapani, sapete di questa storia orrenda di un uomo di 39 anni che ha ucciso la moglie incinta, l'ha bruciata, incinta di 9 mesi, perché si era portato a casa l'amante, perché le dava fastidio, dicevano gli altri due figli, che lei fosse rimasta incinta. Insomma, cose di ordinaria amministrazione, quindi ci sono in realtà anche le mezze stagioni. Ma adesso, signore e signori, vado a presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Mario Secchi. Eccoci qua. Caro Mario, mi diceva la Laura Vanossi, che ha i telefoni, che ti cercava un po' disperatamente. Dov'è quest'uomo? Non si trova? Sei alla stazione? Che ci fai alla stazione oggi, scusa? Uomini che vanno? A Firenze. Sei a Firenze, è una cosa importante. Sì. Abbiamo fatto una riunione di liberali. Senti, a proposito di liberali, poi mi dirai se ti piace questa spending review. Ma sì. Poi dove stai andando? Cioè, tu ti fermi apposta per non ci sono più le mezze stagioni su una banchina lì della stazione, no, vero? No, sono alla sala d'attesa della stazione di Firenze, nella sala di Trenitalia. Mi fermo un'ora e poi prendo il treno e vado a Roma. Senti, potresti essere molesto per gli astanti lì, parlando qui in trasmissione? No, no. Sono solo soletto, praticamente. Vabbè, oggi sono tutti in vacanza. Caro Mario Secchi, direttore del quotidiano Il Tempo, e io già ti leggo nel pensiero, Mario. Devo dire che già so qual è la tua notizia della settimana. Non la dire, perché io già la so e te l'anticipo. Io ho capito che quello che ti ha colpito di più, che quello su cui ti sei arrovellato in questi giorni, è il bosone. È vero, Mario? Sto no. Chiariscimi che è questo bosone. No, vorrei deluderti. No, perché sì, è importante dal punto di vista scientifico, perfino filosofico. In qualche maniera anche poetico, se vogliamo, sì, anche poetico e teologico, ma in realtà questo può occupare le mie serate estemporanee di lettura e non gran parte delle mie giornate. Ciò che invece mi è piaciuto moltissimo è il taglio dei tribunali fatto dalla Severino. Ah, ti è piaciuto moltissimo, però invece sì. Prima di dirmi cosa pensi del taglio dei tribunali che ti piace, io vorrei che tu ci spiegassi con la tua sapienza che cos'è sto bosone, questa particella di Dio. Tu l'hai capito che cos'è questo bosone? Vabbè, la parte originaria, o meglio, la particella originaria della materia, quella che cercavano da tantissimo tempo. Qualcuno dice che è Dio. Io non sarei così, mi arrischierei. Così piccolo, uno non se l'aspettava, così piccolo, giusto, insomma. Comunque, no, ecco, sì, diciamo, quello che dà la massa a tutto, poi capire bene, forse nessuno me la spiega, diciamo così, molto in modo semplificativo, potrebbe essere questo. Se qualcuno in ascolto ha delle competenze straordinariamente scientifiche e vuole spiegare con, diciamo, parole semplici ma efficaci cos'è questo bosone, però, siamo qua, naturalmente. Che però non è la materia più importante, eh? No, la materia più importante è matematica, penso. Qual è l'italiano? No, è l'antimateria di cui sarebbe composto gran tutto parte l'universo, dell'universo. La materia oscura, eccetera, eccetera. Comunque, ti ho visto abbastanza preparato, ma sentiamo se c'è qualcuno. Leggo un po' di fisica e astronomia, ma non da essere al punto. Uomo dai variati e svariati interessi. Senti, caro Mario, mentre sei lì alla stazione, e qualcuno potrebbe anche sentirti, non credo che ci sia rischio di linciaggio, insomma, cosa ti piace? Quindi la spending review, hai detto il taglio dei tribunali. Sì. Perché? Sì, perché la mappa delle circoscrizioni giudiziarie praticamente resisteva così fin dai tempi di Cavour, quindi in mezza giornata il ministro Severino ha fatto una rivoluzione incredibile. Adesso sembra una cosetta da niente, ma nessun governo l'ha mai fatto, e invece è importante. Ma vi pare che ci sono 220 sedi distaccate che non servono praticamente a nulla? Andranno via, per precisione, Mario, 37 sedi in 5 anni. Esatto, esatto, 37 sedi. E tenete presente che parliamo di poi 220 sedi distaccate che hanno un costo, cioè ci sono uffici dove c'è il capo della procura ma non ci sono il PM, tanto per dire, cioè delle cose abbastanza surreali. Quindi quella è una grande riforma. Senti, sulla scuola, Mario, si parlava prima di un taglio, questa non l'ho capita ancora bene, 200 milioni, se non sbaglio, 200 mila euro, adesso non mi ricordo. 200 milioni sul fondo dell'università. Ecco, però è vero che questi verranno spostati poi alle scuole private? Mi sembrerebbe una follia levare la scuola pubblica per darle alle private. Sono i miti che ogni tanto vengono fuori dalla rete e così via, non scherziamo. Cioè, li tagliano, secondo me, ecco, quello era un taglio in realtà da considerare, cioè, perché secondo me l'Italia ha bisogno di mettere soldi nella ricerca, e parecchi anche. Senti, le province invece 61 sono a rischio chiusura, è una cosa che per il momento è ancora rimandata, vediamo poi se sarà vera anche questa cosa. Insomma, la mia opinione è che le province vadano tagliate tutte, quindi io ritengo quel taglio insufficiente. È un taglio del 50%, devono essere segate tutte, non servono niente. Statali, addio al posto fisso, cosa ne pensi di questo? Perché Monti aveva detto non useremo l'accetta, però può darsi che abbia usato la mannaia o la scure, perché uno dice l'accetta non l'ho usata, io l'ho detto, però magari ha usato qualche altro strumento, che ne so. Simile, ma per ora siamo alla diminuzione del 20% dei dirigenti e del 10% degli statali. Sì. Siamo assolutamente in un numero fisiologico. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che è abnorme e abbiamo soprattutto il prodotto interno lordo pari a 1.600 miliardi annui circa, che per il 50% è intermediato dal pubblico. Quindi parliamo di 800 miliardi che sono intermediati dal pubblico, dalla pubblica amministrazione e così via. E anche quello non va bene. È quello che non va bene proprio. Sentirei all'800240024 Maria dalla provincia di Savona. Maria. Buongiorno a tutti e grazie di darmi voce. Un lungo sospiro, Maria, qui hai cose ponderose. Volevo comunicare la mia opinione da medico sul taglio dei posti letto dell'ultima manovra, posti letto ospedalieri. Io ho fatto prima il medico in ospedale, ora lo faccio sul territorio e ho notato che il bisogno di cure della popolazione non è rapportato semplicemente al numero della popolazione, ma all'età media della popolazione, perché è diverso il bisogno di cura di una popolazione giovane rispetto a quello di una popolazione vecchia. Senza dubbio. L'Italia è un paese abbastanza vecchio, una regione da cui parlo, la Liguria, è la più vecchia d'Europa. È vero. Sul discorso dell'economia in termini sanitari, sarebbe più opportuno invece rivedere i bilanci della sanità. Perché da quando è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, il bilancio è ripartito più o meno, punto più punto meno, metà per l'amministrazione e metà per la gestione, il che corrisponde in una qualunque attività produttiva a destinare metà del bilancio a commercialiste, consulente del lavoro e metà del bilancio a locali, utenze, stipendi, contributi, fornitori e chi più ne ha più ne metta. Sì. Se un'attività produttiva impostasse il bilancio in questo modo, fallirebbe al primo anno d'esercizio. Quindi Maria, qual è la tua conclusione? Prego? Quindi qual è la tua conclusione, Maria? La mia conclusione è che sarebbe bene rivedere la parte di bilancio della sanità destinata all'amministrazione, che purtroppo è un pascolo elettorale, invece che tagliare dei posti letto indiscriminatamente in rapporto alla popolazione residente. Maria, ti ringrazio, visto che sei anche una addetta ai lavori. Grazie Maria. Che ne pensi, Mario Secchi, di questa critica, argomentazione di Maria? Che naturalmente l'ascoltatrice dice una cosa assolutamente ragionevole. La qualcosa però va girata la palla alle regioni che hanno l'autonomia, ahimè, dico io, sulla gestione della sanità. Perché tu non saresti per l'autonomia, quindi saresti per una potere centralizzato. No, i risultati no. Guarda, ci sono degli studi interessantissimi dove viene fuori chiaramente che la spesa italiana ha cominciato a galoppare con l'istituzione delle regioni da una parte, nei primi anni 70, nel 73-74 per l'esattezza, e poi con il mito della sanità gratis per tutti. La qualcosa ha fatto esplodere i bilanci dello Stato e ci siamo ritrovati col debito pubblico che conosciamo tutti, cioè 2.000 miliardi di euro, il terzo debito pubblico del mondo. Bisogna cominciare a riaccentrare alcune cose, perché l'autonomia in Italia viene interpretata come autonomia di spendere come pare e soprattutto sprecare.

a te ti danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro. Bene, torniamo con i piedi per terra, torniamo al numero verde 800 24 00 24, da Luca a Roma. Luca, sei a Roma? Sì, sono a Roma, buongiorno. Buongiorno a te, Luca. Qual è il tuo argomento? Volevo parlare, diciamo, ho sentito che avete accennato a questa scoperta del bosone di Higgs e volevo, insomma... Il bosone di Higgs, sì. Volevo capire, tu sai qualcosa di più di questo bosone? Hai studiato qualcosa, hai capito? Sì, io sono un fisico all'Università a Roma. Molto bene, hai accolto il mio appello allora. Cos'è sto bosone, Luca? Sì, anche se io non sono, diciamo, proprio specialista in queste cose, però insomma, in bosoni. Più di quello che avete detto, lo so. Allora, per prima cosa, questo bosone, diciamo, sì, è una grossa scoperta, ma non è nient'altro che la conferma di una teoria che era già, cioè che è stata messa in piedi dagli anni 60, quindi non è una rivoluzione, cioè, come vogliono fare, non è una rivoluzione, ma cos'è? Cos'è? Sì. E questo bosone non è nient'altro che diciamo spiega un meccanismo per il quale le particelle hanno la massa, cioè secondo il modello standard, quindi secondo il modello senza il meccanismo X, tutte le particelle dovrebbero avere massa nulla, cosa che vediamo sperimentalmente che non è così, e quindi c'è bisogno di questo, diciamo, è stato teorizzato questo meccanismo per far sì che le particelle acquistassero massa. E in cosa consiste questo meccanismo? In pratica, diciamo, tutto lo spazio è diciamo, come riempito da questo campo, che è il campo di Higgs, e le particelle interagendo con questo campo, a seconda di se la loro interazione, diciamo, è elevata o bassa, quindi se interagiscono più o meno, acquistano una massa maggiore o minore. Per fare un esempio, è come se quando noi ci muoviamo, diciamo, in una piscina, in una un liquido denso, diciamo, meglio una specie di melassa, insomma, se noi abbiamo una grossa, diciamo, siamo poco aerodinamici, diciamo, e quindi ci muoviamo facendo molta resistenza, acquistiamo, quindi ci muoviamo piano. Se invece siamo veloci, quindi ci muoviamo velocemente, vuol dire che interagiamo poco con questo liquido, sì, e quindi ci possiamo muovere velocemente. Quindi questa è l'analogia. Quindi alcune particelle interagiscono piano, cioè poco, con il bosone di Higgs, e quindi hanno massa piccola o nulla, altre particelle invece interagiscono molto. E quindi, Luca, se, diciamo che, ecco, se si potesse essere una spiegazione ancora più chiara e più semplice, non mi dispiacerebbe, ma vuol dire, se io sono fatta di massa come tutti, ho alla base un bosone, quindi ci sono dei bosoni anche in me, cioè ci sono dei bosoni in me, Luca? Esatto, cioè tutte le particelle, bosone, quindi anche quelle che compongono, costituiscono, che ci formano, sì, hanno la loro massa proprio perché interagiscono con questo campo di bosoni. Luca, io ti ringrazio, ringrazio il tuo impegno, spesso chi si occupa di certe materie difficilmente magari riesce a spiegare con semplicità, ma mi rendo conto che non è una cosa semplice da spiegare. Comunque, Luca, apprezzo moltissimo il tuo impegno e l'aver chiamato all'800 24 00 24, dove ci sono Bruno da Napoli, Giovanni da Bergamo, Isa da Roma, un po' da tutta Italia, su e giù. Però prima di lasciarci per la prossima pausa, Mario Secchi, tu ti è chiaro quindi questo bosone, anche tu, molti bosoni. Sì, adesso sono alla ricerca del bosone che c'è in me. Perché già non avevamo abbastanza interrogativi su di noi, adesso anche io. Sono indeciso tra la caraffa filtrante del catalogo dei punti del treno e il bosone che c'è in me. Adesso deciderò durante la pausa pubblicitaria. Molto bene. E cosa ti volevo dire, anche prima di lasciarci, tu sai che Vasco Rossi... Si è sposato, adesso non so se già è avvenuto. Oh, diceva è una sconfitta, cioè si lamentava, è come se andasse al patibolo, no? E ha poi, ragione, però hai capitolato tardi. Tu sei sposato, scusa se ti faccio questa domanda. Certo. Io sono capitolato presto. Quindi anche tu sei un pentito che... Ma conto di riprendermi. E magari se poi vuoi passarci anche qualcuno, Mario... Guarda, se vuoi ti passo Guido Crosetto davanti a me, è arrivato adesso. Insomma. Ah, ma magari tra pochi istanti, sì, perché prima ti volevo... Te lo collego. me lo colleghi. Parte tu guida. Lui parte alle 14.55 per Milano. Caspita. Io alle 3:15 per Roma, se vuoi poi te la passo. No. Senti, no, a proposito di Vasco, no? Parlavamo di matrimonio, sconfitta o non sconfitta, tu hai fatto le tue battute, diciamo, che con gli uomini non si capisce mai esattamente cosa pensano su questo argomento, ma allora spostiamoci un pochino. E ti chiedo, Mario, sai che dalla Francia è arrivata questa notizia. Hollande è stato uomo di parola nel suo programma politico, la campagna politica c'era questo punto come un punto centrale, quello dei matrimoni gay e delle adozioni. Che ne pensi adesso che ha detto ci saranno? Ma che la Francia credo sia un paese pronto per questo tipo di decisione. Ha una chiesa, cioè una società molto secolarizzata, una chiesa forte ma meno presente nella società di quanto sia per esempio in Italia. In Italia è in atto una discussione aperta, io personalmente non sarei neanche contrario, a patto che vengano messi alcuni, specificate alcune cose, in particolare sull'adozione e così via. Sono per, ovviamente per la piena fruizione di tutti i diritti civili di tutti, che mi pare la cosa più logica. Mi chiedo se l'Italia sia invece un paese maturo per questo tipo di decisioni, per la presenza forte della Chiesa nella società italiana in particolare. Ecco, ma tu personalmente... Cioè, ne faccio più un discorso di maturità del paese. Io personalmente non ho nessun problema in proposito. Senti, Guido Crosetto che pensa? Guido Crosetto, adesso glielo chiediamo, aspetta, te lo passo. Crosetto, tu cosa ne pensi dei matrimoni gay? Io ho detto che sono favorevole, ti passo Roberta Giordano di Radio 24. Senti che improvvisata facciamo in diretta. Pronto? Pronto Crosetto? Pronto? Sì. Deputato del PDL. Sì, sono alla stazione di Firenze, sì, in attesa del treno per Cuneo, sì, per Torino. Posso chiederle che va a fare a quelle parti? Va in montagna a farsi una passeggiata? Va a Torino a fare... Vado a casa? A casa? Io abito a un piccolo paese della provincia di Cuneo che si chiama Arena e sto andando a casa da mio figlio. Molto bene, Crosetto. E mi fa piacere che vada a casa da suo figlio. Che ne pensa di questa cosa della Francia sui matrimoni gay, sulle adozioni? Come sentivo prima quello che diceva Secchi, la Francia ha un substrato culturale totalmente diverso dall'Italia. Io rispetto al mio partito mi sono evidenziato già qualche volta per quanto riguarda i diritti delle coppie di fatto. Ecco, e quest'altra volta lo possiamo dire anche quest'altra volta? Sì. Insomma, parlo normalmente di economia, mi lascio parlare di economia, ne ho abbastanza per parlare di spending review e di decreto sviluppo. Ma via, Crosetto, non si trinceri dietro... Ripeto, mi fermo per adesso, mi fermo ai diritti delle coppie di fatto, mi pare che le adozioni siano... Cioè, un passaggio culturale mica molto semplice. Senta, ma voi che siete liberali del PDL, quando è che su questa cosa vi muovete? Almeno sui diritti delle coppie di fatto, quindi gay... Ma sui diritti delle coppie di fatto mi pare di essermi mosso anche pesantemente. Guarda, le affermazioni, visto le reazioni del mio partito. Se dovessi parlare di adozioni, sarei molto più cauto anch'io. Crosetto, ma... Probabilmente perché sono cresciuto in un substrato culturale diverso. Non so di... Cioè non è un tema su cui dico la penso così sono sicuro di aver ragione. Cioè le dico, magari sono arretrato... un passo per volta. Un passo per volta, Crosetto. Anche se in Spagna ha visto, anche in Francia stanno facendo tutto abbastanza velocemente. Difatti, come le dicevo, non parlo di temi che non conosco, che non approfondisco, che leggo solo con... ho l'abitudine di occuparmi di altro, ripeto, mentre sulle coppie di fatto e sui diritti delle coppie di fatto non ho alcuna, con tutta tranquillità dico il mio pensiero, sono favorevole. Sulle adozioni invece... Così, a pelle, visto che mi ha passato Mario Segre, cosa non è. Vabbè, allora andiamo sull'economia, che è il suo piatto forte. Allora mi dice: sull'economia, la cosa che meno le piace di questa spending review? No, io penso sia necessaria, non la chiamerei spending review perché noi dobbiamo ricostruire e rifare la macchina statale, non tanto tagliare la spesa, vedere come vengono dati i servizi statali e ricostruire la macchina che li dà per spendere di meno. Questo è un passaggio positivo comunque. Che può essere migliorato, va migliorato, mi pare assurdo criticarla anche perché di spesa statale stiamo morendo tutti, cioè soprattutto la parte più debole del paese, che alla fine sì, è quella che subisce gli aumenti fiscali o l'aumento del costo dei servizi. Crosetto, visto che siete abbastanza d'accordo, non tutto il PDL è d'accordo sulla spending review, ma ultima domanda, visto che manca ancora un annetto alle elezioni, si pensa che si arrivi fino a primavera 2013, che cosa avete in serbo di più sostanzioso come PDL? No? Si parlava di cambio di nome, di sorprese, di primarie. Cos'è la cosa che più... Lo chieda alla classe dirigente del PDL, io sono, come lei sa, sono una voce un po' fuori dal coro. Eh no, mi interessano anche le voci fuori dal coro. Sono eretico, quindi non chieda a me non chieda a me il futuro e le scelte future del PDL, perché potrei fare dei danni. No, ripasso Mario Seghi, no. Vado a prendermi il treno, perché devi mi fa prendere il treno, già ci metto 4 ore e mezza o 5 arriva alla casa. Lei è simpatico ma reticente, Guido Crosetto, ma la ringrazio e buon viaggio. Ma mi ha preso la sorpresa. Di sorpresa. Anche a me mi ha presa di sorpresa. Grazie al direttore. Grazie, buon viaggio. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Mario, eccoci qua. Insomma, ci ho tentato con le pinze, ma niente, Crosetto è stato abbastanza. Crosetto è uno tosto. È tosto. Sì, sì, se me lo trovassi davanti, dico oddio. Oddio. Allora, Bruno da Napoli, andiamo sugli ascoltatori. Bruno. Sì. Buonasera. Buonasera, caro Bruno. Allora, diamo una spiegazione di questo bosone semplice. Veramente? Sono tutte orecchie, adesso mi concentro. Ce ne sono diverse, sì? Ma gliene do una semplicissima. Sì. Diceva prima un collega... Luca. Le particelle, Luca, non hanno massa, non avrebbero massa secondo la teoria standard. Benissimo. Lei consideri di stare in una sala da ballo. Sì. Cosa si balla? Tango? Ah, tutte donne. Interessante tutte questa donne. Cosa. Sì. Ognuna di queste donne è libera di andare dove vuole, sì, e ben lontana dall'idea da toccarsi. Ecco, sono liberi in questa sala immensa. A un certo punto entra un bell'uomo, facciamo Brad Pitt, va? Sì, vabbè. Tutte queste donne cominciano a guardarsi, se le piace naturalmente, tutte queste donne cominciano ad avvicinarsi a Brad Pitt. Si avvicinano tutte a Brad Pitt. Sì. Si scannano così, tutte per Brad Pitt, sì? Beh no, sì, no, si scannano, non lo sappiamo. Quindi diciamo, lo attorniano, sì, e costituiscono la massa. Questo è, è il bosone. Il bosone funziona in questa maniera. Ma il bosone e Brad Pitt o tutto l'insieme? Non ho capito. È tutto il bosone. Tutto bosone. Il bosone, quindi, è la particella che attrae tutto quello che sta attorno. È una questione di attrazione, ecco, questo mi mancava. Sì, la chiamiamo... colla atomica, va bene, è una colla. Lei immagini che ci sia nell'universo una colla che unisce. Questa colla non è altro che il bosone. Che il bosone? Bruno, ma che lavoro fai nella vita? Io sono ingegnere. Ingegnere. Ce n'è anche un'altra, gliela dico semplicissima. Sì? Se lei considera una serie di ami, sì? Lei lancia una pallina da ping pong, fra tutti questi ami non succede niente. No. Ma se lei lanciasse una pallina che è lana di vetro, vedrà che questa pallina, gli aghi si attaccano tutti alla pallina. Questo è il bosone di Higgs. E tutto avviene a una grandissima velocità, per questo non riuscivamo a scoprirla. Ma è solo questo. Quindi una questione di sala da ballo e di attrazione. Mi è piaciuta questa metafora. Bruno, ti ringrazio molto. Se dovessi avere poi altre spiegazioni da dare, sono qua, va bene? Buona giornata. Grazie a te, Bruno. Isa da Roma? Isa. Elisa, mi era mancato un pezzo. Senta signora, sì, io sono un'assidua lettrice del giornale di Seghi. Sì. Allora, io su questa spending review, non so perché nessuno ne parla, quando c'era ministro Brunetta, un suo consulente era Giarda. Sì. Ecco, che fece uno studio, il Formez famoso, uno studio dove diceva che le macchine blu costavano 7 miliardi di euro l'anno. Una finanziaria, 14 mila miliardi di vecchie lire. Allora Brunetta, questo me l'ha raccontato un signore che lavora a Formes, disse io non posso dire 7, dirò 4, e fece un'intervista, disse 4 miliardi di euro l'anno. Io non so se non hanno vergogna. Io sono stata a Londra, in zona metropolitana, ho incontrato i ministri che andavano a lavorare. Oh, prima cosa. Seconda cosa. Dice che devono licenziare i dirigenti, licenziarselo chi gli pare, no? Se sono incapaci certamente, ma prima di licenziare i dirigenti ci sono decine, centinaia di contratti di collaborazione a amici e parenti, uno per tutti. E il sindaco di Roma, lei sa che si chiama Alemanno, vero sì, signora? Certamente, Gianni Alemanno. Ha fatto tra gli altri un contratto a un certo Massimo Varazzani, che è il 32esimo contratto di collaborazione, per 600.000 euro per stabilire quali sono le ditte creditrici nei confronti del comune che hanno fatto dei lavori. Ma allora tutti questi dirigenti a che cosa servono? Isa, su questo hai ragione, non so nel caso specifico di Alemanno, ma leggevo anche nelle inchieste di Rizzo, per esempio, che anche chi lavora al Senato, anche per esempio consulenti, ma anche del pubblico impiego, già dipendenti, eccetera, chi lavorano però, che danno delle prestazioni al Senato, hanno un'indennità che a volte supera del doppio lo stipendio, delle cose folli. Isa, ti ringrazio e chiederei a Mario Secchi se è informato, cosa pensa anche delle auto blu, tra l'altro con questa spending review dovrebbero essere anche quelle tagliate, Mario. Ma anche lì, dunque, ci sono vari livelli di competenza. Il governo ha già dato provvedimento di tagliare le sue e noi ovviamente controlleremo che questo venga fatto. Dopodiché le regioni devono tagliare quelle delle regioni, le province finché esistono devono tagliare le proprie e così via. Cioè l'autonomia, ripeto, è uno dei grossi problemi dell'Italia, perché non l'autonomia in sé ovviamente, ma perché è stata interpretata come la possibilità di fare quel che si vuole dei soldi dei contribuenti, cioè dei soldi degli italiani. Questa è una cosa che deve finire. Ora, o finisce perché le regioni, i comuni, le province che esistono si danno una regolata, o finisce perché il legislatore avoca a sé alcune competenze cambiando le norme, in particolare la Costituzione. Guardate, è un percorso dal quale non si esce altrimenti. Bisogna segare tutte le cose che la signora ha detto giustamente, le auto blu, le consulenze, è tutta roba che deve finire. Ma perché un'amministrazione di Roma, nelle sue varie espressioni di sindaci, Veltroni, Rutelli, Alemanno, deve continuamente ricorrere a consulenze esterne quando ha una... quando ha una pianta organica mostruosa? Punto di domanda. Volevo leggere in realtà, qui ci sono tantissimi commenti sulla pagina Facebook, fra le notizie scelte, molti la spending review, qualcuno, anzi forse la gran parte, anche il bosone, diciamo, che spero abbiano ascoltato oggi i facebookiani e le facebookiane abbiano capito da Luca e soprattutto da Bruno che cos'è questo benedetto bosone. Poi devo dire molti interventi anche sulla decisione della Francia che ha annunciato adozione ai nozze gay per il 2013. Vorrei leggerli tutti, io li ho già letti e sono molto interessanti, ma se volete un po' vedere il dibattito, che cosa ne pensano le persone, andate sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, perché c'è, è molto ricco e ci sono alcuni che hanno fatto interventi lunghissimi che ringrazio, che ho letto personalmente, che magari qui hanno poco spazio in questo momento, visto che ci sono diverse telefonate, e vorrei anche andare a un piccolo appuntamento con Michele Dalai, editore e scrittore. Caro Michele, cosa ti colpì questa settimana particolarmente? Buongiorno Roberto e buongiorno a tutti. Buongiorno Michele. Mi ha colpito una cosa che potrebbe sembrare una piccola questione di lana caprina, una facezia, che riguarda però linguaggio, comunicatori e percezione di sé. Sì, una cosa ora, complessa. Tu sai che c'è... Sembra complessa, sì, non lo è. No. C'è un personaggio che, a cui la cultura popolare italiana deve molto, ma soprattutto deve molto al padre. Si tratta di un figlio d'arte, lui è Aurelio De Laurentiis, sì, un produttore cinematografico. Produttore, sì, che soprattutto noto al grande pubblico, non solo per aver prodotto i famosi cinepanettoni che ha recentemente annunciato di voler abbandonare, almeno come definizione, ma per essere diventato presidente del Napoli, esattamente, è diventato il presidente del Napoli Calcio, che ha salvato da una situazione di estremo pericolo e indigenza, ha riportato alle massime serie, è un buon presidente, un presidente qui, che lavora con culatezza, sì, fa delle cose egregie. Il suo problema credo sia diventato ultimamente quello di una furibonda esternazione, continua esternazione, e soprattutto nelle ultime settimane si è impadronito di un aggettivo che noto ama molto, che è cafone, è un insulto che lui dedica più o meno a chiunque. Rispetto ad altri è moderato, diciamo, rispetto ad altre parole che si sentono anche in Parlamento, cafone non è simpatico, ma è abbastanza moderato. Non è per niente simpatico, però qual è il problema? Che nella metà o nella stragrande maggioranza dei casi questo insulto viene rivolto a dei giornalisti, identificati come male supremo. Mercoledì nei corridoi della Lega Calcio, dopo una riunione abbastanza normale, credo nemmeno particolarmente turbolenta, richiesto di informazioni sul calciomercato del Napoli, ha prima dato dei cafoni ai giornalisti che lo intervistavano e poi al povero Andrea Longoni, che è un giornalista di Tele Lombardia, che lo invitava a moderare i termini, ha minacciato di mettere le mani addosso. Mettere le mani addosso. Allora la mia grandissima curiosità, è una curiosità piccola ma molto grande, è qual è la percezione di sé che ha un personaggio pubblico e un comunicatore che oltre a fare della coprolalia e dell'insulto, la media della sua comunicazione minaccia di passare alle mani di fatto, cioè non è lui un po' un cafone? Questo sembra un interrogativo pari quasi al bosone, caro Michele Dalai, e su questo dubbio ci lasciamo e ti ringrazio, al prossimo sabato. Ciao Michele. Al prossimo sabato, ciao. Ciao Michele. Mario Secchi, ma effettivamente un po' vivaciotto, diciamo, De Laurentiis. Poi se uno è interessato, no, ai prezzi dei calciatori, ecco, quello è il calciomercato, che deve chiedere, che cosa ha mangiato ieri? No. Dai, gli è scappata la frizione. Gli è scappata la frizione. Vincenzo da, Vincenzo da Milano, ci sei? Ci sono, buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno Vincenzo, Roberta, mi puoi chiamare tranquillamente. Sì. Ah, ok. Niente, io volevo intervenire sulla categoria dei pubblici dipendenti, approfittando anche del dottor Secchi, che ammiro molto per l'equilibrio del giudizio, ecco. Molto bene. Io volevo dire che questa categoria, praticamente con la quale appartengo, è la più tartassata in tutti i sensi, perché voglio dire, abbiamo un blocco del contratto per 3 anni, abbiamo uno stipendio, io personalmente le dico che prendo 1.100 euro, 1.100, cioè fare una famiglia con 1.000 euro al mese, guarda che dura, e in più ci dobbiamo anche assorbire praticamente tutte le varie manovre fatte anche dal ministro precedente, Vincenzo, quindi per sintetizzare, perdonami perché sono un po' di corsa, sì, adesso sì, giusto. Voi dire siete una categoria tartassata, quindi già dicevo, ma in tutti i sensi, è quello che mi dispiace di più, perché Vincenzo, voglio dire, io quando sono entrato ero abbastanza motivato, sì, però adesso sono un po' depresso. Allora vediamo se un po' di depressione la tira su Secchi. Caro Mario, che dici a proposito? Dico che il problema vero è la tassazione, cioè che Monti dovrebbe avere il coraggio, cosa molto difficile, di fare contemporaneamente all'attuazione della spending review uno spostamento della pressione fiscale. Sul lavoro, sul costo del lavoro. Sì, perché è troppo alto. E noi abbiamo, attenzione, buste paga che sono molto inferiore alla media europea. È vero, e questo è un po', è un po' paradossale voler fare i tedeschi sul controllo della spesa senza avere però le condizioni dei tedeschi, però le condizioni di lavoro dei tedeschi, le retribuzioni dei tedeschi, quindi insomma qua c'è qualcosa da riequilibrare anche piuttosto in fretta, perché altrimenti non combattiamo la recessione. Sono assolutamente d'accordo, ma adesso altro appuntamento con Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana della Sapienza di Roma. Cara Valeria, a te chiederei questo termine così musicale, il suo origine, significa spending review. Ecco, spending review. Beh, intanto la responsabilità è in un certo senso di Domenico Siniscalco, ministro delle Finanze dal 2004 al 2005, perché trasse ispirazione da un documento dell'allora ministro del Tesoro Gordon Brown, che aveva usato questa espressione nel governo di Tony Blair. Poi l'espressione è stata ripresa anche da Tommaso Padoa-Schioppa nel 2007, quindi si è passati al governo Prodi, sempre nel tentativo di rimettere ordine nel bilancio, e oggi, come dicevate, di spending review si parla tutti i giorni. Ora qui un'osservazione, ma non per amor di purismo, ma insomma certamente ai cittadini forse farebbe più piacere un'espressione tutta italiana, no? Reso conto, diciamolo, divisione della spesa. Pare che proprio ieri l'altro il Presidente del Consiglio abbia dimostrato una certa sensibilità, non nella sostanza ma nella forma, cioè l'attenzione a pronunciare questa espressione nella traduzione italiana. Forse tutti accetterebbero meglio la spending review se non fosse in inglese, che ne dite? Questo non lo so, grazie Valeria Della Valle, non so se sarebbe tanto diverso. Poi lo chiederei a Mario Secchi a questo punto. Mario, ti sembra che potrebbe essere più accettabile? Fatto dire revisione della spesa, siamo tutti d'accordo. Ecco, e tu ti senti più sollevato? No. Mario dalla provincia di Chieti, dimmi solo questa risposta, poi magari richiami sabato prossimo. Tu ti senti più sollevato se diciamo revisione della spesa pubblica? Matteo? Pronto? Sì, Matteo? Sì. Sì, scusi, non avevo capito. Niente, ma io intervenivo per la questione dei tribunali. perché vorrei che i tecnici... Matteo, allora mi devi perdonare, dobbiamo rimandare a settimana prossima questa cosa, perdonami tu Matteo, Giovanni da Bergamo, le altre ascoltatrici e ascoltatori, perché mi dicono che il tempo corre perché forse non ce la facciamo, rimani ancora qualche istante Matteo se ce la faccio, perché volevo chiedere a Mario Secchi, abbiamo ancora 1:40, Matteo, ci sei sempre Matteo? Proprio riesci in 30 secondi, perdonami, 30 secondi. No, volevo semplicemente che i tecnici spiegassero come fanno a risparmiare i soldi sui tribunali dovendo pagare, sopprimendo i tribunali, dovendo pagare ad esempio una media di 500 testi che si devono spostare e devono essere rimborsati il biglietto di viaggio giornalmente che vanno ai processi. Faccio un esempio, Vasto sta a 90 km da Chieti dove sarà spostato, tutte le persone che percorreranno 100 km andare, 100 km a tornare per il circondario dovranno rimborsare e poi dovranno rimborsare tutte le spese dei testi rapportanti con fogli di viaggio e pranzi. Ho capito Matteo, chiarissimo. Polizia, finanza, polizia penitenziaria che tradurrà. Chiarissimo anche... Matteo. Grazie. Devono spiegare ai cittadini. Scusami, devo quasi chiudere, però volevo chiedere invece a Mario Secchi, mentre chiudiamo, tu sai che sta arrivando anche Minosse dopo gli altri anticicloni, no? Dopo Caronte e Scipione. Minosse, però pare che questi nomi siano puramente inventati, capisci? Mentre in America c'è un istituto nazionale apposito che ufficializza, in Europa c'è questo istituto di meteorologia dell'Università di Berlino che invece se li inventa basta che tu, anzi no, dà la possibilità di pagare dai 199 ai 299 euro per poter inventare un nome. Tu che nome inventeresti per il prossimo? Mario. Bella domanda. Me lo dici la prossima volta? Ma cioè, mi fai una domanda, che ne so, la prima cosa che mi viene in mente è Sardinia, benissimo. Questo, grazie Mario Secchi, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.